Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa dell'Eurogruppo, ossia il vertice dei ministri economico-finanziari dei paesi che fanno parte dell'Euro, si terrà infatti questa sera in Lussemburgo e poi domani mattina sarà come sempre invece la volta del vertice Ecofin, cioè dei ministri economico-finanziari di tutta l'area europea. Dall'incontro di questa sera potrebbe, forse, perché con Bruxelles bisogna sempre essere molto prudenti, ma potrebbe arrivare qualche indicazione in più sull'atteggiamento che avrà la Commissione europea nei confronti della nostra legge di stabilità, quella già anticipata in parte da Renzi, nella sua parte come volumi, diciamo 23-24 miliardi. E i dubbi potrebbero arrivare soprattutto sui tagli di spesa giudicati da alcuni osservatori insufficienti a fronte di interventi finanziari che per quasi la metà si ottengono aumentando il deficit che appunto il governo fa sapere resterà al 3%. C'è chi dice no, alla fine il governo farà come ha fatto quello francese e quindi non rispetterà la soglia. Per ora però tutte le indicazioni ufficiali, compresa quella di oggi del ministro Padoan, che ha detto non vi sarà e non c'è, o meglio, nessun negoziato con Bruxelles, siamo in un processo assolutamente normale. Di questo parleremo anche della Fiat, perché addio Fiat, titolano molti siti, FCA oggi debutta a Wall Street, il cane Marchionne suoneranno la campanella di chiusura della giornata di borsa, quindi quella non di apertura. FCA è quotata a New York, l'esordio è positivo, più 5,6% a $9.19 in apertura, il debutto proprio del titolo FCA. È stata anche tolta la targa Fiat dal lingotto, la nuova sede del gruppo infatti in Olanda, mentre la residenza fiscale, ricordo, è a Londra. Sulla sede sventola a questo punto la bandiera bianca con il logo blu della nuova FCA, e John Elkann ha detto è un momento storico. Parleremo anche dell'incontro che c'è in Confindustria a Bergamo per l'assemblea annuale. Matteo Renzi dovrebbe essere iniziato ora, in questi minuti sarà presente il Presidente del Consiglio, oltre che chiaramente il Presidente di Confindustria Squinzi. E del Nobel all'economia sarà il tema di apertura, va infatti alla Francia il premio del 2014, ma è più che interessante perché si tratta di un francese, è interessante perché dopo tanti anni di premi dati a chi studiava mercati finanziari, ricordiamo la simmetria informativa, le analisi econometriche, si torna all'economia forse più classica, diciamo così, o alcuni direbbero l'economia reale. Perché? Perché il premio l'ha vinto Jean Tirole dell'Università di Tolosa per la sua analisi sulle forze di mercato e sulla regolamentazione. E ha studiato molto anche i meccanismi antitrust. Ma lui insegna economia industriale, quindi è un economista, io dico classico, come si direbbe una volta, ma non un econometrista né un appassionato e uno studioso di mercati finanziari. La terza volta che la Francia vince il Nobel per l'economia dopo Gérard Debreu nell'83 e Maurice Allais nel 1988. Ricordo che l'unico italiano a vincere il Nobel sull'economia è stato fino adesso Franco Modigliani nel 1985, quando già insegnava all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology. E questo per quello che riguarda il Nobel. La borsa come va in questa giornata di inizio settimana? Sostanzialmente Milano è in linea con il resto d'Europa, perde adesso lo 0,20%, Parigi è invariata, Francoforte fa più 0,2%, Londra più 0,3%, l'America meno 0,14%, molto male, e di questo parleremo nella seconda ora del programma, Luxottica, dopo la conferma già anticipata dai giornali del fatto che chi aveva appena preso da 30 giorni il ruolo che fu per 10 anni di Andrea Guerra, quindi il numero uno, e mi riferisco a Enrico Cavatorta, ha lasciato la guida di Luxottica. Era stato proprio il fondatore, nonché proprietario, Leonardo Del Vecchio, a volerlo come amministratore delegato dopo l'addio di Guerra. Il suo addio dovrebbe consentire di far entrare in consiglio il consulente Francesco Milleri, persona suggerita, gradita alla moglie di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo, ma anche il motivo dei contrasti con Cavatorta e che hanno portato, secondo varie ricostruzioni, uno degli elementi per cui ha lasciato il suo incarico. Alle 19 il CDA della Luxottica dovrebbe esprimersi sulla proposta del presidente Del Vecchio di cooptare Massimo Vian. Il titolo, dicevo, perde il 9%, male anche Steam Microelectronics meno 5%, Hughes meno 3,30%, Campari meno 3,20%, Azimut meno 2% come Saipem, l'1,90% lo perde Tods, l'1,60% lo perde Telecom Italia, l'1,30% Generali, l'1,1% Enel. Mediolanum più 3,90, Pirelli più 2,50, Autogrill più 2,40, A2A più 2,1, Fiat Chrysler più 1,44, Banco Popolare più 1,30, CNH più 1,20, come Intesa San Paolo, Atlantia più 1%, come Buzzi Unicem. E Tenaris, il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Come sempre in apertura del programma le altre notizie in breve, oltre ai temi di cui ci occuperemo. C'è un record storico dell'euro sul rublo, la divisa russa infatti ha toccato oggi per circa un'ora il suo valore più basso da sempre nei confronti dell'euro, 51,25 rubli per un euro. Il record precedente era del 3 marzo a 51,20 rubli per un euro. L'Eurogruppo, dicevamo, che si svolgerà questa sera in Lussemburgo. Oggi però il presidente dell'Eurogruppo, Ron Dijsselbloem, ha detto, insomma, chi gli ha chiesto, l'Europa chiederà alla Francia di rivedere la sua legge di bilancio, quella che ha spostato al 2017 il deficit al 3%. Beh, ha detto, i dati francesi ci preoccupano, ma è la Commissione che dovrà decidere. Le cifre che sentiamo arrivare da Parigi non sono molto incoraggianti, come ho detto altre volte. Senza dubbio ci sono motivi di preoccupazione. Penso che la cosa migliore per l'Europa sia che si trovi una soluzione per le leggi di bilancio di tutti i paesi all'interno del quadro di regole e usando la flessibilità dove necessario. Nessun accordo al di fuori del patto. Penso che la situazione italiana sia diversa da quella francese perché la Francia ora si trova nella fase che costituisce il braccio correttivo del patto. L'Italia invece è nella situazione definita come braccio preventivo del patto. Situazioni diverse anche per i criteri che vengono coinvolti nei due strumenti del patto. Anche nel caso italiano però dobbiamo aspettare e vedere le cifre definitive. Poi, come anticipavamo, il nostro ministro dell'economia Padoan, che ha detto no, non c'è nessun negoziato con Bruxelles, siamo in un processo assolutamente normale. Non c'è nessun negoziato con Bruxelles, siamo in un processo assolutamente normale. Naturalmente Bruxelles riceverà immediatamente all'approvazione del Consiglio dei Ministri i numeri della legge di stabilità e poi avvieremo un dialogo normale che si concluderà rapidamente dopo che la Commissione avrà esaminato non solo i numeri ma anche la logica nella quale questo programma si iscrive. E poi altre dichiarazioni del ministro, che ha detto da ora il tema degli investimenti non riguarderà solo l'Ecofin, come suggerito dalla presidenza italiana, ma anche l'Eurogruppo. E poi la sostenibilità del debito italiano è fuori discussione. nella legge di stabilità vi saranno delle risorse a favore del mercato del lavoro e per sostenere un'accelerazione del Jobs Act. Sempre così Piercarlo Padoan. L'Italia sta completando la legge di stabilità, quindi non commento su una cosa che è in via di definizione, sarà presentata dal Consiglio dei Ministri mercoledì. Ricordo una cosa, che l'Italia ha una strategia di politica economica che si basa proprio sull'interazione fra riforme strutturali, il cui programma sta andando, mi sembra, avanti a ritmo spedito, e una composizione della politica di bilancio che sostiene le riforme. Ci saranno nella legge di stabilità delle risorse a favore del mercato del lavoro per dare un avvio ancora più accelerato a quello che pensiamo sarà presto approvato definitivamente, cioè il Jobs Act. Infine, ministro Padoan, diverse ipotesi, ma non è ancora definito il quadro generale per quello che riguarda il TFR in busta paga, un meccanismo molto delicato, ha aggiunto il ministro dell'economia, e qualunque cosa si fa sul TFR ha delle conseguenze da valutare bene. È dei lavoratori, il TFR serve un utilizzo più flessibile, non si tratta di restituire nulla, sono risorse già loro. Sul TFR stiamo definendo, la questione del TFR è una questione che ha a che fare sull'utilizzo del TFR da parte dei lavoratori. Non dimentichiamoci che il TFR è risorsa dei lavoratori, quindi non si tratta di restituire niente ai lavoratori, casomai di cambiarne e rendere più flessibili i modi di utilizzo di queste risorse che sono loro. Allora, due notizie ancora prima di passare a questo Nobel, a un francese, e a un francese che studia economia industriale, non, ripeto, sistema economia. Non è una cosa da poco, perché vuol dire, dà anche un'indicazione di un ritorno all'economia di un certo tipo, dopo che per anni in realtà la maggior parte dei premi Nobel venivano vinti da persone che si occupavano di studiare gli andamenti dei mercati finanziari, il rischio, la simmetria informativa e quant'altro. Due notizie, dicevo ancora però. La prima, in 10 anni l'Italia ha perso 535 medie aziende, un'indagine di Mediobanca e Unioncamere, mentre sul fronte della ST di Terni, quindi di Acciaio Speciale di Terni, si terrà giovedì il tavolo convocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo ha reso noto il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo. L'alluvione di Genova, non abbiamo molto da dire, avremo poi un viaggio da fare, ma adesso è ancora un momento di emergenza. Oggi il presidente della regione Claudio Burlando ha stimato in 300 milioni di euro i danni finora calcolati, e venerdì verrà proclamato lo stato di emergenza, perché appunto i danni sono superiori a 300 milioni. Non abbiamo molto da dire, perché mi sembra che poi nel decreto sblocca Italia verranno inserite nuove risorse pari a 50 milioni. Però una cosetta di quelle che riguardano un appuntamento di cui vorremmo veramente fare a meno, ma che continuiamo ad avere, cioè su come funzionano i nostri enti pubblici, enti locali soprattutto, dobbiamo raccontarla. Allora, lui si chiama Enrico Musso, è un ex senatore del PDL ed era l'avversario di Marco Doria al ballottaggio per l'elezione del sindaco del 2012. Musso, chiaramente, quindi, fa attività politica, ha incrociato due tabelle che il comune di Genova ha pubblicato separatamente. Da un lato i premi di produttività, che ormai vengono chiamati retribuzione di risultato, e dall'altro gli obiettivi del piano esecutivo di gestione. Ora, a maggior ragione con quello che è successo a Genova, il risultato è uno scandalo. Adesso io lo dico senza voler mettere altra benzina sul fuoco, ma come cavolo è possibile che 4 dirigenti del comune di Genova abbiano incassato i bonus legati agli obiettivi che dovevano eliminare le conseguenze di un'eventuale alluvione. Ma ci rendiamo conto? Cioè, i premi andavano da un massimo di 17.600 euro a un minimo di 6.000. Ma non è tanto la montata del premio, è che te la dice lunga su come vengono dati i premi ai dirigenti, anche nel pubblico, anzi, soprattutto nel pubblico. Le voci per i quali i quattro dirigenti hanno incassato i premi comprendevano la mitigazione del rischio degli edifici ubicati nelle aree a maggior rischio idrogeologico, e si è visto. Il monitoraggio del territorio, e si è visto. Gli appalti per le opere pubbliche, e si è visto. Il drenaggio urbano, e si è visto. Lo scolmatore del torrente Bisagno, e si è visto, ahimè. L'adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, il riassetto idrogeologico. E Musso giustamente dice: hanno distribuito premi a pioggia senza neanche guardare che gli obiettivi fossero raggiunti, oppure chi ha fissato gli obiettivi è un incompetente e dovrebbe trarne le conseguenze. Pensate che solo uno tra i dirigenti del comune non è stato premiato, i capi settore invece sono tutti stati premiati. E c'è un funzionario che ha incassato un premio da 17.000 euro lordi, percepisce un lordo di 124.000 euro, ma nel secondo caso la responsabilità ricade direttamente in capo al sindaco, e lui aver fissato all'amministrazione gli obiettivi inadeguati, non fossero stati adeguati gli obiettivi alla drammatica situazione idrogeologica del territorio. Laura Petacchi, dirigente dell'area tecnica, ha avuto 17.600 euro di premio legati tra l'altro a sovraintendere e coordinare i processi connessi all'attuazione di opere infrastrutturali strategiche, alla pianificazione e messa in sicurezza del territorio. Quantomeno lo devi restituire. Stefano Pinasco, dirigente manutenzione infrastrutture verde, ha ricevuto 9.500 euro di premio a un lordo di 110.000 euro l'anno, perché ha raggiunto l'obiettivo di occuparsi dello scolmatore del Bisagno e del Chiaravagna e gli interventi di adeguamenti idraulici. Enrico Vincenzi ha ottenuto pure lui il premio, è il dirigente del settore opere idraulico-sanitarie, era incaricato del monitoraggio del territorio, degli appalti per il sistema idrico e di drenaggio urbano. Infine Monica Bocchiardo, dirigente nel settore che comprende i servizi territoriali e la protezione civile, aveva come obiettivo la mitigazione del rischio per gli edifici ubicati nelle aree di maggior rischio idrogeologico, sviluppo e promozione della conoscenza delle attività di protezione civile. Guadagna 94.000 euro lordi e ha avuto 7.000 euro del premio di risultato. Si è pure difesa a Sky, ha detto: il mio obiettivo era mitigare il rischio, è quello che ho fatto. Cioè, come dire, non posso conseguire un premio per fermare l'acqua con le mani. Ho capito, ma di che premio stiamo parlando con quello che abbiamo visto a Genova? Hai pure il coraggio di dire che il messaggio è: se non avessi fatto quello che ho fatto sarebbe andata anche peggio, come mancava solo l'arca di Noè. Vabbè, chiudiamo con Tiberio Bentivoglio, a cui va tutta la nostra solidarietà. È un imprenditore di Condera, spero di pronunciare correttamente, frazione di Reggio Calabria. Si batte contro la criminalità dal 1992, da quando ha denunciato i suoi estorsori. Vive sotto scorta ed è titolare di un negozio che vende prodotti elettromedicali e per l'infanzia. Da quando ha denunciato i boss, no, per far capire com'è facile fare impresa nel territorio dove c'è la criminalità organizzata, da quando ha denunciato i boss dell'Andrangheta, ha avuto un crollo delle vendite. Negli ultimi 9 anni il suo fatturato è sceso del 75%, perché un imprenditore, ci sono tanti modi per ammazzarlo fisicamente, ma anche in questo modo. Impedisci o consigli vivamente a tutti i cittadini di non andare a fare acquisti da lui, meno 75%, quindi è rischia il crack sotto il peso dei debiti e si appresta a liquidare la sua attività. Pochi giorni fa Equitalia ha trasmesso a Bentivoglio l'avviso di vendita all'asta della sua abitazione già ipotecata da oltre un anno per 990.000 euro, perché era arrivata l'ipoteca a causa del mancato pagamento dei contributi all'INPS per i suoi dipendenti, nel frattempo scesi da 5 a 2. Non solo, dopo l'ipoteca le banche locali hanno ritirato gli affidi e bloccato qualsiasi credito all'imprenditore, e come se non bastasse i proprietari del negozio gli hanno anche inviato un preavviso di sfratto. E lui è il fondatore dell'associazione antiracket Reggio Libera Reggio, ne ha subiti di tutti i colori: furto nel negozio, attentato nel 98, attentato dinamitato nel 2003, incendio nel 2005, incendio al deposito nel 2008, gli hanno sparato nel 2011, non hanno colpito per miracolo. E questo per aver denunciato la presunta connivenza del parroco locale Don Nuccio Cannizzaro con il presunto boss Santo Crucitti e da lì gli abitanti di Condera giustamente hanno evitato di andare in quel negozio, e il reato di favoreggiamento comunque di cui era accusato il sacerdote è stato prescritto. Quando hanno assolto il sacerdote, nel paesino di Condera, spero di pronunciarlo bene, ci sono stati caroselli d'auto e fuochi d'artificio, il che tradice lunga su cosa, su quante, non c'è nessun tipo di offesa o di razzismo, ma su quanto la criminalità organizzata, nel caso specifico la 'ndrangheta, venga non tollerata, ma anche aiutata in certi posti, e quanto noi abbiamo un sistema dell'amministrazione centrale, Equitalia nel caso specifico, che invece che fare un monumento a Tiberio Bentivoglio, giustamente, il quale è già in ginocchio, gli chiede anche di vendere all'asta la sua abitazione già ipotecata. Avanti così. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo del Nobel assegnato a un francese. Adesso ho visto una dichiarazione del premier Valls, è uno schiaffo a chi critica la Francia. Stia attento anche il premier francese Manuel Valls, perché i Nobel vengono dati, sì, ma non è che quando vinciamo un Nobel, vince un Nobel Italia o l'America, è uno schiaffo a chi critica l'Italia o l'America. Viene dato per attività di ricerca scientifica, in questo caso nell'economia. Uno può dire è un premio per l'attività di ricerca francese, ecco, questo sì, ma dire che è uno schiaffo a chi critica la Francia, cos'è? Secondo lei a Stoccolma ha dato il Nobel alla Francia per dare un segnale alla Germania, cioè parli a nuora perché suocera intende, ma dai, per favore, anche i francesi ogni tanto sbarellano. Invece è una sorpresa, perché lui ha vinto il premio per la sua analisi sulle forze di mercato e sulla regolamentazione. Insegna economia industriale all'Università di Tolosa. Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Grande studioso e grande economista, autore di libri che io ho adorato, parlo di Fabrizio. Però anche l'uomo che ci aiuta sempre a capire ogni anno i motivi, al di là delle frasi, dei tecnicismi, per cui vengono vinti i Nobel. In questo caso, dicevo, forse rispetto agli anni 2000, quando spesso, complice lo strapotere della finanza, l'economia finanziarizzata, venivano dati premi dall'Accademia di Stoccolma a persone che studiavano i mercati soprattutto, e studiavano la simmetria informativa, l'econometria, adesso, ma non vorrei dire una cavolata, siamo tornati a un economista industriale classico, da quello che vediamo nel profilo. Sì, direi che Jean Tirole si è chinato proprio sul problema fondamentale di una economia di mercato, che è un problema micro: come regolare, come fare in modo che un'economia sia efficiente. C'era la mano, famosa mano invisibile di Adam Smith, ma Adam Smith stesso non disse solo quello, disse anche che quando due o più produttori si trovano assieme, la conversazione volge sempre in qualche modo di spennare i clienti. Quindi oltre alla mano invisibile ci vuole anche la mano visibile della regolazione. Più un'azienda è grande, più è necessario avere un regolatore. Ecco, ma come si fa a regolare? Qui entriamo in un ginepraio, perché Jean Tirole non si è limitato a stabilire quei principi generali che già avevano seguito all'inizio della regolazione le famose authority. Ha detto che bisogna andare giù caso per caso. Lui ha costruito, anche con modelli matematici molto sofisticati, dei pacchetti di contratti fra i quali il regolato deve scegliere come essere regolato, e in questo modo, costruendo questi contratti in una maniera molto intelligente, ha potuto fare sì che il regolato evitasse sia i profitti eccessivi e sia indotto a ridurre i costi in maniera poi che i prezzi siano il più possibile abbordabili per i consumatori. Ecco, ci sono dei monopoli naturali, ma ci sono anche dei monopoli non naturali. Per esempio Microsoft, non so, l'80-90% dei sistemi operativi del mondo sono Windows, ma non sono Windows perché Microsoft è un malvagio monopolista, semplicemente perché ha fatto un sistema operativo che era migliore degli altri e tutti l'hanno adottato, però è diventato di fatto un dominatore del suo mercato, e quindi questo vuol dire che deve essere regolato come devono essere regolati gli altri monopolisti. E quindi Jean Tirole si è chinato proprio su questo problema della migliore regolazione possibile, anche affrontando il problema della cattura, perché un regolatore può essere catturato dal suo regolato, può diventare troppo vicino alle esigenze, una specie di sindrome di Stoccolma applicata alle authority, e in questo modo c'è un problema anche di disegnare il rapporto gerarchico fra il governo che crea l'authority stessa e il regolato, quindi di disegno delle istituzioni in modo da far sì che non si pongano problemi di cattura del regolatore. E questo ci dice due cose: A, che il Nobel va a chi ha studiato sì il mercato, ma in questo caso non il mercato dei capitali, il mercato finanziario, ma il mercato dei beni. Qui, dicevo, torniamo all'economia classica, l'idea di Smith, che poi non dice questo, che la mano invisibile regola da sola il mercato. La storia ci ha dimostrato che no, che se tu non hai un soggetto terzo, in questo caso lo Stato, l'antitrust, scusatemi, che mette le sue regole, la tendenza è poi a creare, a generare delle situazioni di oligopolio, anche perché qui mi ricollego un altro Nobel, di solito tra i due soggetti, quello che vende e quello che compra, spesso quello che vende ha un'asimmetria informativa, ha più informazioni di quello che compra, cioè lui, e quindi da lì non è vero che tu incroci la domanda e l'offerta in maniera perfetta come vorrebbe la teoria. Ecco perché poi il regolatore serve, lo dico anche a chi accusa questo programma di essere un talebano del neoliberismo. Mai abbiamo, cioè, non c'è niente di male nell'essere neoliberisti, Thatcher, Reagan, tutta la scuola, diciamo, von Hayek, uno può citare quello che vuole, però obiettivamente questo programma ha ascoltato tutti, ma ha sempre chiesto, nel caso specifico dell'Europa, politiche forse più keynesiane che neoliberiste, se uno sa di cosa sta parlando quando scrive, per cui l'utilizzo del deficit per fare investimenti infrastrutturali nel caso dell'area euro, cioè tutto tranne che neoliberismo. Poi, ripeto, non c'è niente di male nell'essere neoliberisti. Senti Fabrizio, il motivo per cui secondo te viene dato adesso un Nobel a chi ha studiato la dinamica e il ruolo dei meccanismi di regolamentazione, dicendo appunto che è difficile che il mercato si autoregolamenti, e se l'antitrust nasce da questo, dall'impedire l'eccesso di posizioni dominanti, è un tentativo dell'Accademia di Stoccolma di tornare appunto all'economia reale, quella che si chiama economia reale, capendo che la parte più di finanza o più di econometria, cioè di modelli matematici, algoritmici applicati all'economia, così sono già stati analizzati e premiati, ed è un segno quindi anche secondo te politico, o vogliamo leggerlo noi così? Beh, diciamo che si può sempre leggere qualche motivazione ulteriore in queste assegnazioni di premi Nobel, e coloro che li decidono sono uomini come tutti noi, quindi sono anche sottoposti a quelli che sono gli imperativi etici del momento. Io direi che in un momento in cui c'è sempre più diseguaglianza all'interno degli stati, in cui c'è una specie di riverbero, una specie di inquietudine di fondo riguardo alle risultati di questa diseguaglianza, ecco, il dire che il premio va a qualcheduno che ha cercato il modo di limitare il potere di mercato che dà possibilità, diciamo, di fare degli extra profitti, ecco, se vogliamo possiamo anche leggerlo in questo senso. Grazie anche a Fabrizio Galimberti, e soprattutto complimenti a Jean Tirole, appunto, Università di Tolosa, premio Nobel dell'economia per il 2014. We'll be right back. adesso la borsa. Vedo tanti messaggi su quello che abbiamo letto sulla Calabria e anche su Genova. Lo so, però invece se qualcuno scrive forse l'ennesima teoria economica inutile, no, non è vero. Guardate che adesso, perché uno lo può pensare come vuole, però alcuni premi Nobel che abbiamo commentato in questi 15 anni in realtà un impatto forte ce l'hanno avuto. Citavamo prima la simmetria informativa, che ha messo la pietra tombale una volta per tutte sull'idea che due persone che si incontrano, una per offrire, l'altra per comprare, una per comprare, l'altra appunto per vendere, abbiano lo stesso numero di informazioni. Di solito chi vende sa esattamente quanti beni sono rimasti di quella cosa e può dissimulare le informazioni. La teoria classica prevedeva due curve che si incrociavano in base all'offerta e alla domanda. Comunque adesso c'è la borsa che ha chiuso per quello che riguarda Milano con un calo dello 0,30%, che non è gran notizia. Parigi più 0,12, Francoforte più 0,20, Londra più 0,30 e l'America meno 0,18. C'è poi un caso oggi che si chiama Luxottica, chiusura quasi sui minimi meno 9,23%. Lasciamo Luxottica a parte e occupiamoci del resto della borsa. ST Microelectronics meno 5,40, Campari meno 3,40, Jux meno 3,20, Saipem meno 2% come Telecom Italia, Azimut meno 1,80 come Todds, l'1,5% lo perde Generali, l'1% è il calo di Enel. Bene invece A2A più 2, Banco Popolare più 1,20 come Fiat Chrysler nel Monte dei Paschi, l'1% lo guadagna la Pop Milano, lo 0,90 Intesa San Paolo, Atlantia e CNH Industrial. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Lasciando stare appunto Luxottica, di cui ci occuperemo con un approfondimento apposito, ST Microelectronics. Per ST si sta vivendo un momento piuttosto difficile, perché si susseguono quelle che sono stime non troppo positive per la fine dell'anno e anche per il prossimo anno per quanto riguarda la vendita di microchip. In particolare venerdì è arrivata la stima da parte di un gruppo americano, Microchip Technology, uno dei leader nel settore, che ha rivisto le indicazioni di vendita per l'ultimo trimestre, e il rallentamento ha avuto riflessi in borsa su ST, che ha perso il 5%, ma anche sul resto del settore, visto che in Germania è stata la peggiore, è stata infine una che ha perso oltre il 2%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, volete sapere di Fiat? Beh, c'è stato il debutto oggi a Wall Street, andava bene il titolo al debutto, più 5%, FCA, non si chiama più Fiat. Sì, a Milano ha anche esordito con un buon più 3%, dopodiché ha un po' rallentato, anche più 1,22 la sera. Mercato ha chiuso appunto, come tu dici, più 1,22%, visto diciamo in un contesto di mercato in flessione. Oggi Milano ha infilato la sesta seduta consecutiva di calo, è comunque un esordio positivo, anche perché fondamentalmente cambiava sostanzialmente solo il nome, diciamo così. Sì, infatti da noi nel listino si chiamerà per esteso Fiat Chrysler Automobiles FCA. Allora, di nuovo in diretta con Focus Economia, 17:49 minuti. Dicevamo, da questo punto di vista degli altri titoli, e di Fiat abbiamo già commentato, Mediolanum più 3,30, qui c'è un recupero dopo la notizia che abbiamo commentato venerdì con lo stesso Agnodoris, Silvio Berlusconi obbligato ad andare sotto il 10% nella sua quota, attualmente al 31%. Andrea? Sì, certamente venerdì diciamo c'era anche un effetto emozionale del mercato per una notizia inattesa, poi gli analisti e gli operatori hanno iniziato un attimo a mente fresca a ragionare, sono uscite dichiarazioni di Doris che è disponibile a un investimento anche se non superiore al 10%, quindi a rilevare in parte la quota che Fininvest dovrebbe mettere in vendita, che ricordiamo è intorno al 20%, può darsi che le holding dei figli di Silvio Berlusconi possano a loro volta ridurre la quota in reale in vendita sul mercato, quindi il mercato è tornato un po' sulle posizioni di Mediolanum, perché potrebbe, diciamo, almeno nel breve non essere una così brutta notizia questa vendita di una parte della delle azioni di Fininvest. E poi Pirelli più 2,60%, oggi in evidenza appunto In borsa Autogrill più 1,90, più 2,40% e A2A più 2%. Ancora il Banco Popolare più 1,20 e Fiat Chrysler, l'abbiamo già detta, Monte dei Paschi più 1,1, Popolare Milano più 1%, Intesa San Paolo più 0,90, Atlantia più 0,90, CNH più 0,85%. Per quello che riguarda invece chi è andato male oggi, oltre a Luxottica e Steam Electronics, Campari meno 3,40, Jux meno 3,20, Saipem meno 2%, Telecom meno 2, Azimut meno 1,80. Saipem sul prezzo del petrolio. Sicuramente le tensioni sul prezzo del petrolio in discesa da diverse settimane fanno preoccupare gli operatori su questo titolo, perché il timore è che i grossi gruppi petroliferi possano ridurre gli investimenti nel breve termine e quindi ridurre le commesse per gruppi come Saipem, che proprio forniscono infrastrutture e servizi per il settore petrolifero e per il settore del gas. Di qui appunto il calo e il parere negativo da parte di alcuni case d'affari. Per quanto riguarda Telecom, vediamo che come il mercato ha infilato una lunga serie di cali, oggi siamo alla sesta seduta consecutiva, è un titolo che ha bisogno della certezza di indicazioni certe su quello che sarà la strategia del Brasile e anche in Italia, visto che si parla di Metro Web, di Mediaset Premium e di altre operazioni. Chiaramente il mercato, di fronte a questa pluralità di opzioni ma anche di incertezze, preferisce alleggerire la posizione su Telecom, che ha perso un altro 2%. Migliori e peggiori in assoluto: Edes meno 10,90, Luxottica meno 9,20, Grandi Viaggi meno 8,60, Finta l'Energia meno 8,40, SNAI meno 6,50. Migliori invece: Acote Group più 8,46, e poi EMAC più 6,30, Merck Limon più 6, Basic Net più 5,60 come Monriff. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Sono arrivate alcune dichiarazioni del Premier Matteo Renzi, vedo adesso dalla regia che si trova appunto a Bergamo per l'assemblea di Confindustria a Bergamo. Poco fa ha parlato il Presidente del Consiglio, ha detto di fronte ai progetti di cambiamento bisogna recuperare fiducia e abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo fare. In Italia lavorano più i giudici, sto leggendo assieme a voi le agenzie, in Italia lavorano di più i giudici che i manovali. E la cosa insopportabile è lo scaricabarile. Adesso capisco, perché siccome c'era anche la polemica con le ferie, le vacanze dei giudici, non capivo la notizia. No, il riferimento è a Genova e quindi al fatto che la magistratura avrebbe bloccato alcune delle opere previste. Ecco perché dice lavorano di più i giudici che i manovali. E senza citare direttamente il disastro di Genova, ma ha spiegato che le riforme sono fondamentali, poi succede che le opere pubbliche sono fermate da ricorsi e contro ricorsi. Ho visto Genova in questi giorni. Io non entro nel merito delle vicende locali. Dico soltanto che le riforme di cui abbiamo parlato in questi giorni, in questi mesi, che tutti dicono non sono importanti, sono fondamentali. Ma se un'opera pubblica viene bloccata dal ricorso, dal controricorso, e se nelle opere pubbliche in Italia lavorano più gli avvocati che le imprese, lavorano più i giudici che i manovali, dove vogliamo andare? Ecco perché va cambiata la giustizia civile, ecco perché va fatto lo sblocca Italia, ecco perché va modificato l'impostazione per cui ci deve essere un responsabile. C'è una cosa insopportabile, lo scaricabarile. Guarda, io posso accettare tutto, posso accettare che ci sia un problema, uno può dire guarda è piovuto troppo, tutto bene, ma quando arrivi allo scaricabarile è come se in un'azienda uno dicesse chi l'ha fatto, non lo so, chi l'ha fatto, si apre il dibattito su chi l'ha fatto. Così il Presidente del Consiglio, ascolteremo altri passaggi del suo intervento pochi minuti fa in Confindustria Bergamo, dopo il GR24 e poi se ce la facciamo anche Luxottica come temi, perché il calo è stato molto molto brusco. 18:08, di nuovo in diretta con la seconda parte di Focus Economia. E come dicevamo, il caso di borsa, poi arriveremo alle dichiarazioni che stanno arrivando a Bergamo da parte del presidente del Consiglio Renzi e anche del presidente Confindustria Squinzi, ma dicevo, il caso di borsa oggi, come prevedibile viste le anticipazioni, è Luxottica meno 9,23%. Questo all'indomani delle dimissioni dell'amministratore delegato Enrico Cavatorta, che ha lasciato l'incarico dopo appena 30 giorni, quando ha preso il posto, lo ricorderete, di Andrea Del Vecchio, di Andrea Guerra, mandato via dopo uno scontro con il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Le tensioni tra Cavatorta e Del Vecchio sarebbero nate anche per le pressioni per far entrare nel consiglio di amministrazione il consulente Francesco Milleri, persona gradita alla moglie di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo. L'ha anticipata in tempi non sospetti, come già anticipò le dimissioni di Andrea Guerra, una voce e un nome che conoscete bene, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la borsa non l'ha presa bene, e questo mi sembra abbastanza scontato, però anche a Wall Street ha perso l'8,90% Luxottica. Prima domanda, ti risulta che a questo punto arriverà Massimo Vian, e alle 19 ci sarà un consiglio di amministrazione, c'è chi dice voleranno gli stracci, Alessandro? È così, già oggi ci sono state varie riunioni informali fra tutti i consiglieri di amministrazione, anche con Del Vecchio. So che attualmente Del Vecchio fra l'altro è riunito con il responsabile, diciamo così, dei rischi aziendali, diciamo in questi termini, perché la situazione è abbastanza problematica. Per quale motivo? Perché ci troviamo di fronte a un caso che ha ben pochi precedenti. Normalmente la borsa affonda i titoli delle società laddove vede una crisi che è una crisi industriale, contratti che saltano, difficoltà di mercato, utili che scendono. In questo caso ci troviamo davanti a un'azienda che non ha assolutamente questo problema, non ce l'ha per varie ragioni. Primo, perché sta ancora andando avanti con i piani industriali precedenti, quelli che erano impostati già da Andrea Guerra e che erano stati ampiamente, avevano trovato il consenso pieno del mercato. Ma soprattutto perché, fra l'altro, e questo è bene ricordare perché tante volte tu nelle tue trasmissioni parli del dollaro, dell'euro, con il dollaro su questi livelli per la Luxottica di qui a 3 trimestri o anche 4 direi, fino a 18 mesi, avranno sicuramente dei risultati da primato, dei risultati regola. Quindi in questo caso uno si domanda, ma perché allora perché il mercato butta giù il titolo se non vede un problema di dividendi o di crescita o dividend yield, chiamiamolo come vogliamo, di crescita delle azioni e di valore in generale? Lo fa perché, e questa è una cosa su cui bisogna riflettere tutti quanti, è un problema di credibilità. Ancora una volta il mercato percepisce in Italia delle situazioni dove non riesce a darsi delle spiegazioni sul perché non vengano fatte delle cose che sono state compromesse o altrimenti una strada ben avviata. Qui è un'azienda che in questo momento ha una crisi di credibilità molto forte nei confronti del mercato, e uscirne non sarà assolutamente. Ecco, uno potrebbe dire che tante volte abbiamo detto beh, i manager sono importanti ma non sono così importanti. In questo caso, come tu ricordavi, non c'è un problema di fondamentali di bilancio né di fondamentali di mercato, ma sembra che tutto l'accanimento, diciamo così, o le vendite oggi in borsa siano dovute alla quella che si chiama con un inglesismo governance, potrebbe essere quasi la riscoperta del ruolo dei manager, oppure ha sorpreso tutti che Cavatorta lasciasse, ma veramente può aver lasciato per una tensione così forte su un consulente gradito alla moglie del vecchio? No, qui siamo, diciamo, in questi termini, poiché una volta che salta, si toglie il tappo, una situazione che il tappo è saltato con una guerra in questi termini, qualunque manager che sia degno di questo nome è difficile che poi possa accettare, strada facendo, che cambino i termini delle proprie deleghe. Già, questo, anche se Del Vecchio continua a ripetere che a breve avranno l'amministratore delegato che cercano, quel che mi risulta a me è che ben 3 manager italiani hanno già detto di no a Luxottica. Perché? Perché un CEO degno di questo nome vuole comandare, cioè vuole gestire l'azienda. Non esistono le comproprietà, non esiste la poltrona, già non c'era la poltrona per 2 e ci ha fatto un film, figuriamoci una poltrona per 3 in questo senso. Per cui questo è l'epilogo normale. Tra l'altro, già è curioso anche un altro fatto, Leonardo Del Vecchio, che nel board delle generali fu lui a votare quel famoso consiglio di rompere la governance duale del CEO con Perissinotto e con l'altro amministratore delegato che c'era allora, adesso è andato in Allianz, credo, perché lui diceva le aziende non si gestiscono in due, curiosamente lo fa in tre. Allora il mercato si domanda, ma perché questo, diciamo così, questo, questa curva a 90 gradi di Del Vecchio? Perché è chiaro che è in corso in questo momento all'interno della famiglia di Del Vecchio una sorta di riassetto radicale di quelli che saranno gli assetti proprietari, non oggi, ma scusatemi se lo devo dire, ma in realtà è così, direi post mortem, nel senso che un giorno chi comanderà Luxottica? E allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo una parte, quello che abbiamo scritto, che tutti hanno scritto, che fa un po' capo alla la moglie di Del Vecchio, che sta rivendicando quanto le fu tolto al momento del divorzio alcuni anni fa. La compagna attuale Del Vecchio, la moglie, compagna attuale Del Vecchio, è la ex moglie di Del Vecchio. Chi riduce la questione soltanto a un fatto di soldi sbaglia, perché quando già allora, in occasione del divorzio, lei lasciò l'azienda con 100 milioni di euro di buona uscita. Quindi non è una ricerca del denaro, come molti hanno scritto, l'avidità, no, qui c'è la moglie Del Vecchio che sta cercando di garantire ai propri figli, quindi agli eredi in questo senso, un controllo sull'azienda, perché quando lei uscì furono fatte delle donazioni, furono divise le azioni per i figli. Ecco, ora tutta questo groviglio che si è venuto a creare si è abbattuto sul management. E questo che cosa, per rispondere alla tua domanda, se è la fine dei super manager? Purtroppo quello che ci viene in mente è che in Italia i super manager non c'è posto. Non è un caso se i super manager che avevamo, ovvero, guardate, il Profumo, Passera, tutti quei grandi banchieri, da chi sono stati sostituiti? Dalla linea interna. Allora, c'è posto in Italia per i super manager? Se ascoltiamo gli esperti, che cosa ci dicono? Ci dicono che non hai delle società globali, esatto, poi arriviamo al dunque, se non hai delle società veramente globali o delle società a capitale diffuso come le public company, nell'azienda familiare c'è poco spazio per il super manager, perché arriverà un momento in cui il super manager si identifica con la proprietà e lì nascono i problemi. Quindi, e lì si entra in Marchionne? Marchionne, ricordiamo perché Marchionne è in Fiat. Marchionne è stato chiamato in Fiat perché doveva ridurre il peso della famiglia Agnelli all'interno dell'auto. Questo è stato il suo mandato dichiarato da lui. Allora, non è un caso se Marchionne 4 giorni fa in America che cosa ha detto quando gliel'hanno chiesto? Gli hanno fatto una domanda: come sarà il prossimo amministratore delegato? Ve lo ricordate? E lui ha detto: il prossimo amministratore delegato farà un lavoro completamente diverso dal mio, probabilmente farà automobili, perché lui adesso sta facendo altre cose. Allora, il nodo vero della questione. No, l'ha detto lui, ma non era un gioco di parole, era una cosa importante. Quindi Marchionne è un super manager perché? Perché in questo momento una realtà, diciamo così, globale, perché di fatto la Fiat ha attività in Sud America, in Europa, sta andando anche in Cina con degli accordi, ecco, lì si sta, in quella realtà è stato possibile mettere un super manager, perché l'intenzione della famiglia era il passo indietro, non il passo avanti. Certo. Chiarissima anche la preoccupazione futura della borsa. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. Questo al di là di qualunque giudizio che uno possa dare su questi manager, quelli citati e anche altri che possono venire in mente, Andrea Guerra, Profumo, Passera, insomma, uno poi il giudizio lo dà sulla base di quello che ritiene, però che i contrasti si realizzino quando l'azienda non è internazionale globalizzata e quando appunto si entra in collisione con l'unico proprietario, beh, questo la storia un po' ce lo dimostra, non solo nel caso dei banchieri ma anche in altri casi. Dopodiché vedremo come andrà e quanto alto sarà lo scontro questa sera dalle 19 in poi nel consiglio di amministrazione di Luxottica. Chiaro anche, ripetiamolo per la terza volta, che le vendite che oggi si sono abbattute sul titolo nulla hanno a che fare con le prospettive industriali del gruppo e del titolo stesso. minuti, ultima parte di Focus Economia. Vedo qualcuno che critica la frase di Paterotti: Marchionne è un super manager perché la famiglia voleva fare un passo indietro. No, non è così, ha detto Paterotti. Il caso di Marchionne funziona perché il suo mandato fu di far fare all'interno di una riorganizzazione della Fiat in cui la famiglia voleva fare un passo indietro e l'azienda è globale. Ha detto l'esatto contrario, cioè quando la famiglia non distingue, aggiungo io, tra proprietà da un lato, quindi chi ha le azioni, ma anche gestione, quindi managerialità dall'altro, i contrasti con i top manager, con quelli in cui si identifica l'azienda, poi tendono a essere inevitabili. È un po' diverso a dire che Marchionne è un super manager perché la famiglia Agnelli voleva fare un passo indietro. È una crasi che non rende giustizia dell'analisi fatta da Praterotti, ma proprio perché stiamo parlando di Fiat ci spostiamo a New York, dove c'è Mario Platero, che sta seguendo anche il debutto di FCA oggi a Wall Street. Intanto buonasera, come va il titolo, Mario? Buonasera, dunque titolo direi è un passaggio curioso perché è al rialzo rispetto alla chiusura di venerdì. Ricordiamolo, non si tratta di un IPO, si tratta di un listing sul New York Stock Exchange, cioè il titolo viene quotato come piazza principale su New York, ma di fatto viene trasferito, non c'è un aumento di capitale, viene trasferita la quotazione da Milano, dove poi resterà una quotazione secondaria, a New York. Allora, ha chiuso a quota $8.76 a Milano venerdì, in questo momento a quota $8.95, dunque in leggero rialzo, però dal punto di vista della borsa americana è a ribasso. Perché? Perché questa mattina ha aperto a $9, è stata l'apertura del titolo. Quindi, siccome il New York Stock Exchange non ha quotazioni precedenti, questa è la prima apertura della prima quotazione, loro considerano come punto di riferimento l'apertura di questa mattina a $9, quindi 8.95 e allo 0, qualche cosa per cento al di sotto dell'apertura. È andato anche nella prima mattinata quota 9.40, però devo dire che l'aspetto della quotazione di oggi è relativo e secondario, perché quello che gli operatori sapevano la settimana scorsa, venerdì, lo sanno anche oggi, non ci sono stati cambiamenti, annunci da allora ad oggi, ci sono stati dei passaggi formali, per esempio la fusione tra la Fiat SPA e la Fiat Invest olandese, che era un passaggio tecnico necessario per fare la quotazione, e quindi era scontato che il prezzo restasse, diciamo, attorno ai valori di venerdì. Il valore importante è invece quello simbolico, perché? Beh, perché di fatto, come accennavi tu prima, FCA diventa un'azienda globale, cioè chiudono oggi formalmente due storie nazionali, due storie, una italiana e una americana, e nasce una storia globale. E i due elementi di fondo, secondo me, molto importanti sul piano storico e per noi sul piano interno, sono proprio questo passaggio, il passaggio per l'America attraverso un mercato che è un passaggio obbligato per diventare azienda globale, il passaggio per Detroit, il passaggio per il mercato americano, per la produzione americana, e poi la nascita di questa prima azienda che formalmente è globale, perché è molto interessante come questo matrimonio poi abbia prodotto un'azienda che è presente un po' dappertutto anche dal punto di vista di quartieri generali. Il secondo passaggio importante è su New York, piazza finanziaria chiave, perché vuol dire da qui avere poi un accesso, se sarà necessario in futuro. Sappiamo che Marchionne ha detto no, per ora nessun aumento di capitale, ma quando sarà necessario in futuro, beh, c'è molta più reazione, interesse, attività se tu sei quotato al New York Stock Exchange che non sei quotato soltanto. Ecco, ti do un'integrazione, perché le agenzie hanno appena battuto il voto che Standard & Poor's ha affidato a FCA. È lo stesso che aveva Fiat SPA, cioè WB meno per Standard & Poor's sul lungo termine, B sul breve termine, con un outlook, con una prospettiva stabile. Ricordo anche che è stata tolta oggi la targa Fiat dal lingotto, la nuova sede del gruppo infatti è in Olanda, la residenza fiscale a Londra. Sulla sede sventola adesso la bandiera bianca con il logo blu del nuovo gruppo, appunto FCA. Grazie anche a Mario Platero in collegamento con noi. L'ultimo tema, in realtà non è un tema, stanno arrivando e cercheremo di farvelo ascoltare, le dichiarazioni che ha reso poco fa il premier Matteo Renzi in assemblea di Confindustria a Bergamo. Vi abbiamo Abbiamo già fatto ascoltare il giudizio duro su Genova, lavorano più gli avvocati che i geometri, i giudici che i manovali, il fatto che vengono bloccati i lavori pubblici dai ricorsi al TAR e quant'altro. E poi invece sui temi di macroeconomia, di economia italiana, il deficit PIL al 2,9% libererà 11,5 miliardi, cioè non sforerò il 3%, ha detto Renzi, ma il fatto di arrivare al 3% quasi permette di liberare 11 miliardi e mezzo. Quel patto è stupido, però perché lo rispetti, Matteo? Lo rispetto per un motivo molto semplice, che l'Italia ha un problema di credibilità in Europa, sui mercati, a livello internazionale. Sono anni che vedono cambiare i governi che si impegnano in promesse che poi non mantengono. Allora io ho bisogno di dire ai nostri partner europei e ai mercati, a cui vorrei dire quello che penso, dico semplicemente: noi faremo le cose che abbiamo promesso e manterremo gli impegni che abbiamo preso, anche se li hanno presi i nostri governi prima. A me non piace il fiscal compact, ma siccome è stato votato da forze politiche di tutte i colori, io non posso oggi unilateralmente dire faccia come mi pare. Posso dire, e questo lo facciamo, noi non superiamo il 3%, ma arriviamo al 2,9, che vuol dire liberare 11 miliardi e mezzo di euro. E poi la legge di stabilità, quindi la legge finanziaria per il 2014 e il 2015, ha detto Renzi che vi saranno in tutto 18 miliardi che verranno tagliati come tasse, e una parte saranno destinati a incentivi per un triennio per evitare completamente i contributi a chi fa assunzioni a tempo indeterminato. Quindi, per come la capisco, l'imprenditore che assume una persona a tempo indeterminato non dovrà versare i contributi per i primi 3 anni. Tra la finanziaria del 2014, che poi si chiama stabilità, legge di stabilità, e la finanziaria del 2015, il 18 non è l'articolo dello Statuto dei lavoratori, ma sono i miliardi di euro che noi tagliamo come tasse. L'Italia, con questa legge di stabilità, compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Un lavoro di 18 miliardi di euro, 10 andranno a finanziare in modo stabile il cosiddetto bonus degli 80 euro, mezzo miliardo andrà in detrazioni fiscali per le famiglie, cercando di dare un'attenzione ai figli e alla situazione complicata che vive oggi il tessuto connettivo della famiglia, e il resto andrà, in parte ha già iniziato con il primo acconto sul bonus IRAP, ma andrà in due misure. La prima, incentivi che permetteranno per un triennio di non pagare contributi a chi fa assunzioni a tempo indeterminato. È la prima volta che si tenta questa strada. Io vi dico, togliamo per i nuovi assunti l'articolo 18, togliamo il peso fiscale per i primi 3 anni. E altre dichiarazioni arriveranno, ma il programma come sempre termina qui. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.